fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarti. Mezzanotte 57 minuti in questo momento, sabato 6 ottobre, siete sempre in diretta con Master Nick. Ricordo anche orario e data, tanto per certificare che siamo in diretta e per certificare anche lo scorrere del tempo, visto che insomma la nostra radio poi va in replica per parecchie settimane, parecchi mesi, così vi ricordiamo anche tutte le volte che abbiamo approfittato della compagnia di qualcuno dei nostri amici, dei nostri ospiti, in questo caso addirittura un gradito ritorno, ormai amiche e affezionate del nostro locale che riospitiamo qui molto molto volentieri, Grace e Cristina, benvenute, bentornate, ciao. Ben tutto. Benvenuti. Oh, benvenute, benvenuti a voi, come va intanto? Come è andata benissimo questa settimana? Bene, molto bene, grazie. Io noto però una certa preponderanza di nero nella vostro, perché forse eravate vestite più o meno di nero anche la volta scorsa. Esatto. Quindi noto un certo amore per questo colore o modo di vestire, più forse più che del colore, il modo di vestire. Modo di vestire, diciamo. Come mai? Come mai? Parliamo un po' di donne. Come mai secondo voi la donna predilige spesso il nero sulla serata elegante, allora, non il colorato? C'è da dire che il nero è un colore elegante, sì, quindi ha molta classe e quindi piace molto alle donne. Poi tante donne giustamente lo mettono perché snellisce un attimino. Non volevo dirlo, non bisogno, però c'è questa, c'è però... questa dice, cioè diceria, no, che diceria, diceria non è, sì. Dice una, è una diceria secondo te? Sì, sì, dicono. E come mai? E ora come mai si dice un po' effetto placebo? Dovremmo chiedere agli stilisti come mai dicono queste cose. Ah, è partito dagli stilisti secondo sì, te? Sì, sono proprio loro. Ma voi siete gente che segue la moda, se ne frega altamente, anche perché la moda negli ultimi anni è cambiata. Cioè esatto, si è molto... Diciamo che siamo ritornati agli anni 70, 80. Sì, però la sfarzosità la fa un po' da padrona. Esatto, sì. E si è anche forse un po' allontanata dal modo di vestire della gente, perché io vestito come si vestono... Beh, modelli, faccio fatica a uscire. Allora io dirò una cosa, cioè io dico una cosa, ho notato comunque che secondo me le persone oggi si vestono come si piacciono, mm-hmm, più che seguire, ok, la moda sì, la segui, però giustamente ti vesti anche come ti piace. Okay. Io ad esempio sono una donna che... E non sono una santa intanto, specifichiamolo santa subito. Beh, nel senso che io mi vesto come mi piaccio e sì, non prima devo piacere a me stessa e poi devo semmai piacere agli altri. Ok, ok. Tra l'altro volevo sottolineare per tutti gli ascoltatori maschili, che ascoltatori sono, quindi non sono visivamente presenti in questo momento, che Grace e Cristina sono copertissime, non hanno nessun tipo di trasparenza e non si vede nulla, quindi la mia non c'è distrazione nel mio parlare, perché insomma sono comunque ragazze pudiche, copertissime, quindi non mi sto distraendo vedendole vicino a me. Questo era un momento di specifica che volevo dare per i nostri ascoltatori. E niente, ho perso le parole per qualche motivo che ancora non vi non sto raccontare, capito, che non ho capito, non vi sto molto raccontare probabilmente perché non ha visto trasparenza e quindi si è perso una... Esatto, no, forse la delusione di non aver visto trasparenza. Ma guarda, che secondo mi ha fatto... me tu non stai vedendo molto bene, perché io una trasparenza ce l'ho. E dov'è? E dov'è? Ah, mamma mia, si vede che ho perso anzi, l'occhio. Anzi, ti dirò di più, anche sotto c'ho uno spacco. Sì, che però non si vede. Guarda, io adesso che vedo meglio però noto due trasparenze, non una sola. Diciamo però... che tu ci hai guardato negli occhi. Sì, beh, quello sempre quello. Gli occhi di bellissimi, base, il colore del mare, cosa vogliamo di più? Di base si parte da lì. E no, quindi volevo dirvi, voi siete persone che seguono la moda o che insomma vanno un po' per loro conto, intraprendente, indipendente? Allora, io diciamo la seguo e non la seguo. Ripeto, mi vesto come mi piaccio io, mi devo sentire prima cosa a mio agio, uh-huh, e altrimenti non è che se io indosso un pantalone che mi fa, no, non mi piace, giustamente non me lo metto. Io mi guardo davanti, così dietro dico ok, va bene, però anche se non è moda piace a me. Oh, perfetto. E la scelta si basa sul apro l'armadio e vado un po' a ispirazione, a gusto, o già avete in mente? Guarda, stasera eravamo tutte e due in tilt perché ci siamo telefonate e ci siamo chieste cosa ci mettiamo stasera. Non lo so, allora abbiamo deciso di vestirci comunque di nero. No, perfetto. Uguale, però bene o male siamo simili, con le gonne uguali, perché io e la mia amica Cree ci vogliamo talmente bene, perché purtroppo c'è tanta invidia tra donne, no? Uh-huh. la cosa che tra me e lei non esiste. Viaggiate in coordinato, quindi. Sì, sì. Attenzione però, perché Grace probabilmente inconsciamente ha nominato la parola tabù per ogni maschio alfa italiano, cioè ci telefoniamo, che è un po' l'incubo di ogni uomo, cioè insomma vivere l'organizzazione del vestiario, dell'abbigliamento, della preparazione di una donna. E approfittiamo quindi della vostra presenza per capire quanto dura la vostra, che cosa? La vostra preparazione, la vostra fase, e soprattutto quanto scambio c'è tra voi nel preparare una serata. No, 10 minuti. No, bravi. Perché abbiamo gli stessi gusti. Abbiamo, ci capiamo subito. Siete due donne, infatti, tipo, due donne da sposare. Esatto, di solito noi. No, grazie. Cioè, lì, no, con l'orologio, no. Con l'orologio facciamo in tempo a guardarci due partite di calcio. Matrimonio nel frattempo non esiste. No, da sposare, no. Diciamo così, platonicamente. Ah, sì. Platonicamente. No, io e lei ci capiamo, infatti, tante volte non è che noi ci organizziamo, decidiamo o ci chiamiamo e ci diciamo. Cosa metti tu stasera? No, ci troviamo e siamo vestite uguali, bianco e nero, nero e bianco e anche colorate, eh? Non è che siamo sempre in nero. Certo. No, ci vestiamo anche colorate. Bello, bello, così che c'è questa intesa anche non scritta, ma automatica, questo feeling automatico. D'altronde anche i rapporti di amicizia si basano su questo. Bene, bene, mi fa piacere che siate un po', vi distinguiate un po' dalla massa. Vi sentite un po' distinte dalla massa? Sì, sì, sì. Vi piace questa definizione? Certo che ci piace. Oh, brave, brave. E come definireste la massa ad oggi? Cioè, nel senso, come... Cosa significa per voi distinguersi dalla massa? O in generale distinguersi? Vabbè, distinguerci nel senso che comunque noi siamo due amiche che ci rispettiamo, ci vogliamo bene e non siamo invidiose l'una dell'altra. Cose che invece purtroppo oggi vediamo spesso, le amiche nemiche. Ah sì? O le finte amiche. O le finte amiche che magari si parlano alle spalle, si dicono qualcosa alle spalle quando sì. Non ci Beh, si guarda. Non possiamo chiamarle. Un'amica vera ti ascolta e non ti giudica. Uh-huh. E sicuramente non va a spettegolare da un'altra parte. Le cose che tu racconti le tiene per lei, come tu giustamente quando ascolti una tua amica che ti fa delle confidenze, te le tieni per te. Assolutamente. Queste sì. Queste sono le amiche vere. Assolutamente sì, anche perché la capacità di ascoltare si è un po' persa probabilmente al giorno molto, d'oggi. Anzi, oggi vedo molto, io faccio la barista, prima facevo il tuo lavoro. No, mi ricordo benissimo. Mi ricordo benissimo, l'ho fatto per 23 anni, facevo anch'io questo lavoro, però ho notato purtroppo che oggi le persone anziché parlarsi si mandano i messaggini, anzi da un metro di distanza, anziché sì, anche se non per dire al tavolo stesso. Invece io e lei siamo uscite proprio giovedì sera, siamo andate a farci una bella pizzata io e lei, siamo rimaste fino a l'una di notte al ristorante a chiacchierare e le ore sono talmente volate, parlavamo di tutto, delle nostre cose in generale. Ed è stato bello perché c'è ancora comunicazione, cose che non si vede molto spesso ora. E sì che non voglio banalizzare, cioè conoscendovi da tanto e frequentandovi così tanto, è come un po' un rapporto di coppia dopo parecchi anni in cui è difficile trovare argomenti di conversazione o comunque sostenere una conversazione per così tanto tempo. Questo significa che c'è ancora voglia di conoscersi, di farsi conoscere e di condividere delle cose con un'altra persona che è molto bello. È bellissimo, sì sì sì. Perché dopo tanti anni comunque è difficile, cioè è molto difficile, come dire, dare fiamma a un rapporto, insomma dare corpo a un rapporto, perché è facile cadere nella routine, no? Io vorrei lanciare un appello a chi ci sta ascoltando. Lancia. Soprattutto a queste coppie che io ho notato molto spesso che quando sono in un ristorante a mangiare sono in silenzio, non si dicono nulla. Allora, il rapporto è basato, dal mio punto di vista, sul dialogo. Se non c'è dialogo non ci può essere nulla, mm-hmm. Secondo me. Il silenzio non serve a nulla. Se due persone non hanno più niente da dirsi, tante volte mi chiedo, che ci stai a fare? Certo. Lasciamoci, non illudiamoci, non perdiamo tempo, perché la vita è quello che è e quindi la tua vita la devi vivere sempre a 1000, a 100, con persone che comunque ti danno emozioni, ti fanno stare bene. Ma se una persona non ti dà più emozioni, perché prendersi in giro? Anche poi perché alla fine delle finite si arriva dove? Alla rottura. Certo, anche perché poi il rischio è appunto, non dico accontentarsi, ma continuare per una sorta di obbligo morale o comunque di anche paura di restare soli. Paura di restare soli, diciamo che ce l'abbiamo forse un po' tutti. Comunque la solitudine è una brutta cosa, non è una bella cosa, perché a chi non fa piacere avere una carezza, un sorriso, un complimento, o una persona che ti dice ti voglio bene, a tutti fa piacere. Però secondo me queste cose vanno sentite da persone vere, non da persone che hanno dei secondi fini oppure ti stanno un po' prendendo in giro, che giocano con i tuoi sentimenti. E dal mio punto di vista questa è veramente una cosa bruttissima. Mai giocare con i sentimenti di nessuno, perché fa veramente male. Anche perché, perdonami se, come dire, passo a, come dire, parlo di questo argomento, le donne in materia sono parecchio forti, cioè anche affinate, cioè nel senso che hanno proprio quasi il sentore di qualcuno che finge, o comunque di qualcuno, esatto, di un po' costruito, di qualcuno che ha secondi fini. Cioè una donna non la freghi in queste cose. Io faccio il mio esempio, il mio personale. Io sono una donna che le bugie te le lascio raccontare finché mi fa comodo. Poi una mattina mi alzo col piede sbagliato e comincio a tirarti tutto a raffica. Ti ricordo anche dopo un anno magari di dirti cose che tu mi hai detto. E poi giustamente ecco, l'altra caratteristica della donna, che sembra che non ascolti, che non ricordi, ma neanche Siri, neanche Google hanno una cronologia così dettagliata come il cervello molto, di una donna. Molto, noi anzi computerizziamo. Esatto. Molto. Esatto. Poi un giorno resettiamo tutto. Io sono un toro e quindi chi conosce il toro, allora, è molto paziente, ha molta pazienza, ma quando la pazienza la finisce per sempre, non ti dà più nessuna chance. Tu per me hai chiuso. E poi è proprio un discorso genetico, cioè non un discorso tuo e suo, è proprio una genetica di una donna, quello di essere molto attenta a questo tipo di dettagli, e per cui diciamo che essere finti con una donna fa molto più male che bene, ecco. Poi ricordiamoci un'altra cosa, cari uomini e care donne, ricordiamo che le bugie hanno le gambe corte, prima o poi tutto torna, quindi non andiamo troppo lontano. Io, come ripeto, io le lascio raccontare un giorno, una settimana, un mese, due, poi mi stufo e ti dico tutto quello che ti ho detto, e tu giustamente non hai più modo di replicare né di dire nulla, perché ti ho preso, nel senso. Sì. Perché noi donne siamo comunque, non per vanto di donne, ma abbiamo sempre una marcia in più rispetto a voi maschietti, perché voi volete fare i maschietti, ma purtroppo la maggior parte delle volte non lo siete. Assolutamente d'accordo. Vedi che poi alla fine comunque gli argomenti escono, si trovano. Bello, bello, mi fa piacere questa chiacchierata sul stile di vita, sulla vita in generale. Bello, bello, mi fa piacere. Anche questa sera immagino, come dicevamo prima, in libera uscita, senza motivi particolari di festeggiamento, ma no. Per la semplice voglia di divertirsi e passare un po' di tempo in compagnia. Ballando, divertendoci tranquillamente. Bene, allora vi ringrazio di essere state nuovamente con noi. Grazie a te, grazie a voi. Vi aspettiamo a prossime occasioni e a prossimi weekend. Grazie ancora. Ciao ciao.